inglesi sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Mm-hmm. Io ho detto che ci sono certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi... Noi giocavamo con un assetto di 4-1, come voi sapete, 4-1... Come Marchionne mette un pullover, il maglione blu, no, io lo mette i Bermuda, insomma. Sì, sì. Tutti convocati di Carlo Genta. Sorelle d'Italia, l'Italia se testa dell'elmo di Scipio, se cinta la testa. Pjanic, uno sguardo verso Mattia Destro, poi gira tutto, destro, destro! La sua doppietta, la Roma spanca il Franchi in rimonta, due gol da ex di Mattia Destro. L'Italia se testa. Hiller con la finta, va col destro! Gökhan Hiller, 1-0 per il Napoli, dopo 9 minuti, Napoli avanti col siluro di Gökhan Hiller. La testa. Boateng cerca di girarsi ancora, Boateng va a calciare, segna un gol bellissimo Boateng, che si riprende il Milan e segna il primo gol in campionato all'11° della ripresa. Occhio, c'è spazio per Gonzalez, dentro per Klose, segna sempre Miroslav Klose, Lazio 2 Parma 0 al 34°. La creò. Cerca il cross, Vucinic la mette giù di petto, arriva Claudio Marchisio, 3-0, doppietta di Marchisio. Gargano, Palermo ben chiuso, però difficile trovare spazio. Ranocchia lascia partire il cross e la deviazione, un'altra rete incredibile. Santiago Garcia la mette nella sua porta e l'Inter passa in vantaggio al 29° minuto. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ma ditemi voi, ma ditemelo sul serio, 800 24 00 24, perché siete sempre, come ogni pomeriggio, tutti convocati. Se dobbiamo essere qui a rispolverare la storia delle vecchie invecchiate, imbruttite, impoverite sette sorelle d'Italia, manca la Fiorentina che ieri ha pareggiato, 39 gol, record stagionale per la più inutile delle domeniche, in cui la classifica non si muove, la Juve sdraia al Toro, il Napoli asfalta la peggio squadra della Serie A, cioè il Pescara, la Roma vince a modo suo, cioè complicandosi la vita, il Milan pensa al terzo posto, la Lazio si fa trainare da Klose, l'Inter vince come fanno le squadre in difficoltà, cioè con un autogol, e ci reinventiamo la storia delle sette sorelle. Alberto Cerruti, prima penna della Gazzetta sul calcio. Ciao Alberto. Ciao Carlo, buon pomeriggio, cosa, che ci ascolta. Guarda cosa ci tocca inventarci per una domenica inutile. Beh, sei stato molto bravo a parlare di grandi squadre che vincono così. Questa è fortuna con la F maiuscola. Complimenti all'Inter che ha la fortuna. Cos'è successo all'Inter, Alberto? Ne scrivi oggi? Ma secondo me abbiamo tutti sopravvalutato l'Inter dopo quella meritatissima vittoria a Torino contro la Juventus. Era la 7ª vittoria consecutiva, anche l'anno scorso con Ranieri, che è stato tanto bistrattato, l'Inter ha vinto 7 vittorie consecutive e poi si era fermata, perché l'Inter non è da scudetto. È una squadra che può fare grandi imprese come quella di Torino se tutti giocano al massimo del rendimento. Io sono convinto che il tridente sia un lusso, Stramaccioni sbaglia a insistere col tridente, la squadra è squilibrata, non c'è un regista, è una squadra che può far bene ma non benissimo. Sì, l'Inter l'abbiamo sopravvalutata noi, o si è magari sopravvalutata da sola e si è complicata la vita col caso Sneijder. Stamattina in sede ha parlato un paio d'ore, è uscito... Questione non risolta, non so se siamo noi ad aver sopravvalutato l'Inter o se l'Inter ha sopravvalutato se stessa. Beh, direi che le due cose vanno di pari passo. Io ho sempre pensato che soltanto il Napoli poteva strappare lo scudetto alla Juventus, dopo la vittoria dell'Inter anch'io ho pensato che la squadra di Ramaccioni fosse in corsa. È chiaro che una partita così era importantissima, però bisogna poi vedere, diciamo, a lunga scadenza. Qui siamo a 15 partite del campionato, più di un terzo. Io penso che la classifica non inganna e quindi l'Inter, ripeto, ha un'ottima classifica, avrebbero tutti firmato all'inizio per il terzo posto, però deve, secondo me, soffrire per difendere il terzo posto senza illudersi di puntare al primo. Tanto non bisognerà aspettare molto il confronto diretto tra Inter e Napoli dietro l'angolo. Sì, domenica sera c'è Inter-Napoli, una grande sfida che chiarirà quali possono essere le ambizioni di tutte e due le squadre. Però potrà fare il gioco della Juventus, che a Palermo potrebbe vincere per la prima volta con Conte in panchina, e quindi comunque vada a San Siro potrebbe guadagnare punti sulle due seguitrici. Sì, il Milan rialza la testa, i più insomma normali tra i tifosi milanisti, non sono normali quelli che parlano di scudetto, realisticamente cominciano a sognare il terzo posto. Oggi Galliani ha detto: ma mi piacerebbe vedere quei due con la cresta, Neymar e Sharawi, giocare insieme. Poi ha detto: oh ragazzi, sto scherzando. Però insomma il Milan non ha ancora sistemato i suoi problemi, però intanto va avanti a vincere, lo fa Catania con l'aiuto di Sharawi ovviamente, di un guardaline che non vede bene. È un Milan che comunque sta sentendo la cura Berlusconi, che arriva a fare iniezioni di fiducia tutti i giorni. Ma Berlusconi o non Berlusconi, il Milan è risalito in classifica, adesso è al settimo posto, è giusto che i tifosi sognino, noi che non siamo tifosi dobbiamo guardare le cose con più distacco, e io dico che 10 punti dal terzo posto dell'Inter sono troppi, anche perché tra l'Inter e il Milan ci sono la Fiorentina, la Lazio, la Roma, e io non credo che tutte queste squadre crolleranno contemporaneamente, ammesso che il Milan continui a vincere, continui a risalire. Quindi realisticamente io vedo un Milan da posizione in zona Europa League, di più non ce lo vedo. Nemmeno io. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Alberto Cerruti. Convocati tutti per darmi qualche spunto su questa giornata in cui ho visto solo qualche lampo d'azzurro, ad esempio Marchisi o ad esempio Giovinco, che si sta specializzando nei gol che non contano niente, cioè i terzi. Ad esempio Destro ieri con la Roma. Dietro questi 39 gol non ho trovato granché, al di là di questa vecchia storia delle 6-7 sorelle. Cattivo gusto senza confini a Torino per quegli orrendi striscioni pieni di stupidità, su cui oggi è intervenuto giustamente anche Agnelli, che poi sentiremo. Questo l'Oscar nero di una settimana che insomma ci ha dato sì 39 gol, ma non ha cambiato nulla in questa classifica, almeno nel vertice di questa classifica. Davide Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi ha appena anticipato sull'argomento, perché io volevo parlare appunto dello striscione juventino. Ecco, lei ricorda bene che circa un mese fa la mia squadra del cuore è stata calcisticamente sodomizzata, direi, dalla stampa, giustamente, anche per quello che è successo a Livorno durante una partita. Ecco, sulla Gazzetta quest'oggi io non ho trovato neanche il testo dell'orrendo striscione messo dai tifosi juventini. Guardi, io sarei per oscurarli questi testi, poi della Gazzetta io non rispondo, quindi non è una domanda che dovrei rivolgere a me. Dica. Guardi che sapere le cose non significa necessariamente accettarle, essere coscienti eventualmente. No, questo molto è sicuro, però dare pubblicità all'idiozia mi sembra fuori luogo. Non è pubblicità, perché quando si tratta di alcune tifoserie si può tranquillamente dare pubblicità, giustamente, quando si tratta di altre no. Lei ricorda anche che qualche settimana fa sono stati presi a ferro e fuoco due pullman dei tifosi del Foggia da parte di alcuni facinorosi del Napoli che tifavano per il Campania, Lega Pro. Pagina 19 della Gazzetta dello Sport. Ci risiamo con la Gazzetta dello Sport, però io faccio sentire invece delle parole che secondo me hanno senso. al di là di quelle porcate che c'erano scritte sugli striscioni, perché non... Io non sono particolarmente moralista, posso tollerare tutto, però sulle tragedie, secondo me è la volgarità pura speculare sulle tragedie, anche se si tratta di una partita di calcio. Sentiamo cosa ha detto Massucci. Sì, ovviamente evito ogni commento sullo striscione di Torino, perché il contenuto ovviamente si commenta da solo. È un fatto grave che purtroppo è già accaduto, come giustamente ricordava lei, anche da Sarti. Dopo il capo dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive Massucci, oggi ha parlato invece Agnelli, sempre su questa cosa. Ci sono alcuni striscioni che sono stati esposti durante la nostra partita, ma striscioni che vengono esposti generalmente in tutti gli stadi d'Italia, che contengono insulti gratuiti, sono assolutamente da condannare. E a me questo spiace vederlo, perché solitamente in uno stadio l'ambiente all'interno di uno stadio lo si nota proprio dalla parte della curva, la parte più attiva, sono loro quelli che riescono effettivamente a dare la personalità all'interno di uno stadio. Però credo che la supremazia del tifo sicuramente non si manifesti ricordando le tragedie altrui, perché le tragedie dal mio punto di vista non hanno nessuna fede. Belle parole, ma c'è anche un fischietto. Fossi un arbitro, fischierei? Se vedessi uno striscione del genere, sospenderei la partita e non la riprenderei fino a quando quella porcata è stata rimossa. Penso che ci siano le possibilità anche regolamentari. Rodolfo, Modena. Sì, buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo parlare sull'intervento del giornalista di Cerruti di poco sì. fa. Sulla sopravvalutazione dell'Inter dopo la vittoria, diciamo così, sulla Juve. Mm. Beh, bisogna considerare, al di là dei dati statistici, di pareggi, delle sconfitte, bisogna considerare anche il fatto che da quel momento in poi l'Inter gli è mancata praticamente la difesa titolare, perché Samuel e Ranocchia non hanno giocato per due partite, il centrocampo falcidiato sia da Cassano squalificato, sia da Guarin non in forma, sì. sia da Snyder non contrattualizzato, diciamo così. Quindi quando a una squadra si tolgono gli elementi importanti, ovviamente non è più la squadra che ha battuto la Juventus, ovviamente. Certo. Quindi bisogna sempre considerare il fatto che una squadra non è degli elementi così metafisici, sono degli elementi fisici ben presenti da valutare. Sì, un giornalista poi Cassano deve fare queste valutazioni, ma sì, non ma deve tutti dire devono abbiamo fare, sopravvalutato. Tutti devono fare queste valutazioni. Cassano si è fatto squalificare, Ranocchia e Samuel hanno i loro problemi e sappiamo quanto sono importanti. Beh, Snyder se l'è tolto da solo l'Inter, quindi non... Su questo non c'entra niente nella giustizia sportiva, negli infortuni né null'altro. Quanto al resto, Guarin fuori condizione, boh, lo stiamo scoprendo adesso, ma mi sembra tutta l'Inter fuori condizione. È stata importante la vittoria di ieri, ottenuta come fanno le squadre in crisi, cioè giocando una partita certamente non perfetta, certamente non bella, con un autogol che ha risolto le cose. Che ne dica Stramaccioni? A proposito di Stramaccioni... Top 3 delle dichiarazioni della domenica. Sul terzo gradino del podio, ma anche sul primo, come scopriremo poi, va l'allenatore dell'Inter. Numero 3. Quindi uno come Snyder le farebbe comodo? Se lei domani, se la società definisse con il giocatore una situazione più serena e lui tornasse a disposizione, sarebbe più contento? Cioè, ma la risposta a questa domanda c'è dal 1 aprile fino a due settimane fa. Ovvero? Affermativa? Ah, lei ha cominciato oggi a lavorare? Dunque, la situazione è che oggi ci sono state due ore di colloquio con Snyder nella sede dell'Inter, alla fine è uscito con la faccia scura, ha detto non voglio parlare, nel pomeriggio è atteso un comunicato, la sensazione è che si vada alla rottura. Queste le notizie di cronaca. Giorgio Torino, 800240024, siete tutti convocati, tutti, voglio sentirvi. Giorgio. Sì, ciao. Ciao, di cosa parliamo? Parliamo purtroppo, ma ho già visto che qualcuno è già intervenuto, sullo striscione che i cosiddetti tifosi juventini hanno messo al derby nel loro bellissimo stadio. Mm. È uno scandalo, secondo me, effettivamente l'arbitro, se ha il potere, doveva interrompere la partita, comunque vedremo di dargli pan per focaccia al ritorno. No, perché rispondere alla stupidità con la stupidità non si fa. Non è questo, perché poi allora cosa scriviamo le cose dell'Aisel? Torniamo a queste cose becere. Mi auguro che i tifosi del Torino dimostrino maggiore eleganza al derby di ritorno. Tutto qui, perché non si risponde alla stupidità con maggiore stupidità. Quindi si risponde come ha fatto Agnelli, si dovrebbe rispondere sul campo. Nei limiti del potere dell'arbitro e magari della società che gioca in casa, che ha il potere, io credo pure di far rimuovere la spazzatura dalla vista. Quindi questo è quanto, Giorgio da Torino. Risponderemo pan per focaccia, non mi piace, quindi questo censurato, ok. Grazie a lei. Allora, torniamo alla top 3 delle dichiarazioni. Numero 2, ci va Marchisio che fa piangere un collega, questa fa ridere. È un regalo. Mi domanda quando si fa una doppietta di solo c'è una dedica? Beh, a parte la mia famiglia per i sacrifici che ha fatto, la dedico a Claudio Giuliani che mi ha mandato un messaggio al suo compleanno e allora, siccome ci siamo sentiti, gli faccio ancora gli auguri. Grazie. Che ti devo dire, il compleanno più bello della mia vita. Perché è arrivata la dedica di Marchisio? Perché abbiamo vinto il derby, perché è arrivata anche la dedica sua e... Ma dai. Ma dai. Fabrizio, Bergamo. Pronto? Pronto? Sì, salve Genta, è già un po' che volevo telefonarli, solo che non riuscivo a prendere la linea. Comunque, ce l'abbiamo fatta, 800240024, dica. Sì, diciamo che la sua trasmissione prima di tutto non mi piace, con la conduzione eccetera. Bene. E poi dico a quel covo di milanisti che siete in redazione. Covo di milanisti? Sì, covo secondo me è covo di milanisti, a cominciare da lei e poi per finire con fantastico, chi... quindi vuol dire che siamo bravi. Esatto, va bene, secondo i punti di vista. Esatto, vuol dire che siamo bravi perché lei dice una bugia. Comunque, va bene, avanti. Comunque, è scandaloso che non venga evidenziato il fatto che il Milan ha fatto 3 vittorie nelle ultime giornate, praticamente rubando tutte e 3 le partite. Prima questo, almeno evidenziatelo, no? Cioè, sottolineatelo, voglio dire. Vabbè. Seconda cosa, volevo intervenire. Cosa dobbiamo dire? Che ha segnato in fuorigioco Esharawi, lo sa tutto il mondo? Sì, vabbè, poi la domenica prima con la Juventus, d'accordo, va bene. Sì. La domenica prima, il rigore che non c'era, ma lei si ricorderà che... Hai giocato in 10, va bene, okay, comunque... Ne abbiamo parlato mica poco, Fabrizio, non è questione di evidenziare, no. Un ascoltatore mi ha chiamato e mi ha detto, ma lei è sicuro che non era rigore? Sono sicuro, va bene, non era rigore quello con la Juventus, e poi? No, e poi volevo intervenire sul discorso di Agnelli che ha fatto la bella statuina dicendo quello che ha detto sullo striscione della curva. Chiaramente sarà stato imbeccato da qualche diciamo dirigente federale perché appunto secondo me avrebbe rischiato una bella squalifica. Beh, vediamo cosa rischierà. Io spero gli avranno detto di due parole, altrimenti ti diamo ha detto parole di buon senso. Poi non so se sia stato imbeccato, ma quelle parole, come dice lei, da bella statuina, non cancellano quello striscione. E vediamo che cosa succederà dal punto di vista del giudice sportivo. Quindi non sono parole che non cambiano, non spostano. Sono parole, se vogliamo, di buon senso, però la macchia resta. Grazie Fabrizio, ci fermiamo per la borsa. 800240024, numero verde, vi aspetto qui, tutti convocati. Seba, la cross a tagliare, gol, sì! La Juve in gol col polpo Paul, con il numero 6, gol, Pogba, il gol, lo fa! Diversi ascoltatori con la coda di paglia che se la prendono perché mi fa sorridere la dedica, trovo curiosa la dedica di Marchisio a Giuliani. Allora cosa c'è? non posso avere questa sensazione. La trovo carina, sì, ridicola, ma non mi sembra il caso di pigliarsela. Se volete pigliarvela, fatelo al telefono 800 24 00 24, tanto siete sempre convocati. Allora, siamo alla migliore delle dichiarazioni, alla più divertente delle dichiarazioni della domenica. Sul primo gradino del podio, quindi piglia due medaglie, oro e bronzo, il solito Stramaccioni. Cioè, avete una condizione fisica approssimativa oppure è proprio la mentalità dei giocatori più importanti di questa squadra che è quella di poi sfruttare il contrattacco? No, abbiamo visto due partite diverse. Perché, sì, probabilmente sì. Perché l'Inter ha fatto la partita e no, non è riuscita a essere pericolosa. Io non so dove non sono d'accordo, le... mi spiace Stramaccioni, non sono d'accordo perché allora primo tempo la partita non l'avete fatta voi. Sì, sì, e poi ripetitela. Stramaccioni e Pistocchi con Stramaccioni che gioca anche in questo caso a fare il simpatico. 800 24 00 24 è il numero verde. Tanto tra le notizie di giornata, oltre a questo incontro tra Snyder e l'Inter che pare abbia prodotto una fumata nera, l'avete sentita anche prima nel giornale radio, avviate dicono in Francia, avviati i primi contatti tra Paris Saint-Germain e José Mourinho. Chissà com'è contento Ancelotti. Comunque questo scrivono in Francia e noi ne prendiamo atto, poi vediamo. Abbiamo anche, per completare i nostri appuntamenti così del lunedì, l'Oscar del gol più bello lo ha segnato Krstičić della Sampdoria. And the Oscar goes to... È partito ancora Riccardi, le pallone a cercare l'attaccante italo argentino, di testa la sponda, splendida, gran momento, Krstičić, il tiro, rete, Krstičić, gran gol, il pari della Sampdoria. Uno dei miei idoli era Savicevic, sicuramente, che è stato un gran giocatore, spero di fare carriera almeno metà come lui. Tu sei bravo. Che bravo. Sei bravo. No, no, no, no, no, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. Beh, ha fatto un gran gol in realtà. Se non altro per quella finta con cui ha, senza toccare la palla, sdraiato il difensore prima di piazzare quel sinistro. Ha fatto veramente un gol pazzesco. Qualche altra dichiarazione che non va sul podio calcistico, ma che è abbastanza divertente, riguarda la Formula 1. Ad esempio, ce n'è una imperdibile di Montezemolo su Bernie Ecclestone. Sentiamo quale. Quanto Ecclestone sa, mio padre mi ha sempre detto che bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole, non voglio dire altro. Guardiamo avanti, complimenti a Vettel, complimenti alla Red Bull, guardiamo avanti e sono convinto che ci sono le condizioni perché l'anno prossimo i complimenti ce li facciano loro. Insomma, un vecchio rincoglionito che non riesce a controllare le parole, chissà cos'altro per Montezemolo, Bernie Ecclestone. 800 24 00 24, siete tutti convocati. Vorrei parlare un po' di Napoli con un amico, un critico cinematografico, ma anche un grande appassionato di calcio, che scrive su Pubblico Giornale, o qui l'articolo, il pugile svizzero rimette in piedi il nuovo Napoli. Boris Sollazzo, ciao. Salve a tutti, mi diletto anche come giornalista sportivo. E fai bene, sei, sei molto tifoso, lasciatelo dire. Ma no, ma dai, no. Se fossi veramente così tifoso non avrei mai scritto la parola scudetto in quel pezzo. Hai ragione, questo è vero, questo è vero. Ma tu ci credi? No, onestamente no, credo che il Napoli ecco perché l'hai scritta. Abbia ancora un grosso problema che in parte sta ovviando, nel senso che sta allungando la panchina, ma finché Conte potrà contare su giocatori del nome e del talento di Pogba, Giaccherini, Matri o Quagliarella, visto che era in panchina nell'ultima partita, e noi invece dovremmo accontentarci di Vargas, Aronica Donadel, credo davvero che sia molto improbabile che su 38 partite si possa arrivare davanti alla fine. Certo è che col Verona e con la Sampdoria è successo che tutto girasse a meraviglia, però noi ce l'abbiamo già avuto l'anno in cui tutto è girato a meraviglia e siamo arrivati solo, tra virgolette, in Champions League. Sono d'accordo con te, Napoli ha bisogno di maggiore profondità e qualità nella profondità, perché si regge sulle sue stelle, ma vive e muore in questo modo. Per ora vive e speriamo che viva a lungo. Strano anche che, insomma, via Lavezzi, via Gargano, come se niente fosse. Ma meritato, secondo me quella è la cosa meno strana, nel senso che poi i tifosi si affezionano a, magari a chi ha atteggiamenti più da guitto o che a parole, penso a Quagliarella, dichiarano amore perdutamente, e poi però di fatto non fanno considerazioni tattiche. Lavezzi, per esempio, di sicuro si sente la sua mancanza e si è sentita nelle quattro partite in cui il Napoli è entrato in crisi, però come spezzava le partite a favore del Napoli lo faceva anche a favore delle altre squadre, era un fattore di disordine tattico molto forte. Gargano lo stesso, Gargano era un giocatore che macinava chilometri e sbagliava tantissimo, e di sicuro, questo è poco ma sicuro, nello scambio Berani-Gargano noi abbiamo acquistato un giocatore che recupera molti più palloni, ne perde molto meno e che forse sì, ha un po' di tecniche in meno, un po' di corsa in meno, ma non a caso ha liberato Hiller, perché non c'è più qualcuno che gli pesta i piedi col proprio disordine tattico. E l'Insigne attuale, che pure viene un po' criticato, è un giocatore che comunque finché è stato in campo ha messo il piede o con gli assist o facendo partire l'azione in tutti e quattro i gol, quindi è un giocatore secondo me molto molto utile. Ecco, il Napoli potrebbe iniziare a sperare se riuscisse a recuperare Britos, che sembra avere adesso un altro rendimento rispetto a quello che l'avevano fatto considerare un bidone, e Pandev. Se questi due giocatori dovessero cominciare ad avere un rendimento molto forte e De Laurentiis a gennaio comprasse un centrocampista davvero forte, allora forse la panchina si potrebbe davvero considerare lunga. Intanto, però, insomma, hai miei dubbi. Intanto Boris, è un bel film la prossima partita, perché è confronto diretto tra le sfidanti con l'Inter. Come scrivi tu, speriamo che Mazzarri non ci metta troppa angoscia, troppa agonia in questa vigilia. Sì, anche perché Milano è un po' un campo maledetto per il Napoli. L'altro anno è vero vincemmo, ma vincemmo intanto con un grosso aiuto dell'arbitro, insomma, che non dobbiamo dimenticare, di cui fece le spese Chivu, che dovrebbe rientrare proprio adesso e spero che nei corsi e ricorsi storici possa valere, insomma, questa cosa. Però se no Milano tanto si va bene con l'Inter al San Paolo quanto si va male a San Siro, e poi in qualche modo curiosamente San Siro, sia sponda nerazzurra sia sponda rossonera, arriva sul viaggio del Napoli sempre in momenti decisivi. Io ricordo quando il Napoli rischiava di vincere lo scudetto 2 anni fa, l'anno in cui poi si è andato in Champions, fu proprio la sconfitta a Milano contro il Milan a togliere definitivamente le speranze, e adesso bisogna vedere come andrà con l'Inter. Questa è una partita, secondo me, a mio parere, davvero decisiva, nel senso che credo che il Napoli potrebbe non abbandonare il secondo posto se dovesse vincere a Milano, e se dovesse comunque non perdere, con ogni probabilità avrebbe la consapevolezza di poter rimanere nei primi 3 posti. Allora, poi facciamo la conta di quelli che hanno risposto oggi alla convocazione. Voglio che siano tanti. 800 24 00 24, come sono tantissimi ogni giorno. Vorrei sottolineare i lampi d'azzurro, come ho detto prima, in questa domenica da 39 gol che non ha spostato nulla, che ci ha rimandato questa immagine lontana, illusoria secondo me, delle sette sorelle di cui si parlava 100 anni fa, quando nel calcio italiano girava un sacco di grano. Hanno vinto tutte tranne la Fiorentina, che ha pareggiato. Io credo che le sette sorelle non esistano più, credo che sia stata una giornata che poco ha spostato e molto ha confermato invece sullo stato attuale del campionato. Credo sarà molto più interessante il prossimo weekend, perché la Juventus dovrà passare attraverso il Giro di Donetsk per andarsi a conquistare una qualificazione in Champions League che sembra scontata fino a prova contraria, e poi si tufferà nella primavera indiana di un Palermo semidisperato, che ieri avrebbe meritato, secondo me, che ne dica Stramaccioni, il pareggio a San Siro con l'Inter. Andrea da Bologna, buongiorno. Buongiorno, volevo fare un paio di domande di basket. Qua. Cosa aspettano ad esonerare Scariolo? Domanda, perché l'area Rancida non c'è più. Sì. Siena ha ridimensionato e tutto, però adesso 5 partite su 10 con 20 milioni di euro di budget, forse se la danno a me giuro, Lanford e Aston insieme non li metto. Seconda cosa, poi mollo. Io continuerei a cambiare playmaker, però questione di gusti. Se vuole cambiamo playmaker allenatore. Io playmaker l'ha scelto lui dell'anno scorso al carta bianca, però gli ha detto questi sono i soldi, divertiti, però non sembra che stiamo divertendo molto. Ovvario che 5 partite perdere in casa con Reggio Emilia, Sassari e Venezia. No, ma sono d'accordo, sta andando malissimo, ma Milano sta andando malissimo, ma infatti Scariolo è in discussione, ufficialmente oppure no, Sergio Scariolo è forse per la prima volta nella sua carriera in discussione. Poi? E altra cosa volevo dire, che quello che sta succedendo a Bologna in sponda Fortitudo è una cosa curiosa. C'è uno che ha una squadra di Reggio Emilia, di Ferrara, che la chiama Fortitudo, ha comprato un'altra squadra facendo finta che fosse a Fortitudo e la chiude domani. Sì. Però nessuno dice niente, dicono che c'è la nuova Fortitudo questa. Io non ci credo. Non ci crede nessuno. Magari fa una cosa carina. Non ci crede nessuno, perché quello. Io tifo Virtus, quindi non me ne dovrebbe fregare niente, ma la disinformazione che stanno facendo qua a Bologna è devastante. Sì, è una vicenda molto curiosa questa della Fortitudo, della squadra di Ferrara, della gestione di questa squadra, dell'acquisto del titolo. Fortitudo si fa di tutto per far rinascere un fantasma dal passato, e questo è un pasticcio. La Fortitudo non esiste più, in qualche modo verrà resuscitata, però è come, insomma, mi ricorda altri episodi come la Livorno del basket, che morì quando si fuse. È un dato di fatto che la Fortitudo, per quel che era, purtroppo, e mi dispiace, mi sanguina ancora il cuore, ma la Fortitudo, quella vera, non esiste più, e i tifosi della Fortitudo lo sanno meglio di tutti gli altri. Cristiano, Modena. Buongiorno, volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io sono un appassionato di sport, mi piace molto il tennis. Sì. Ho visto a Milano l'evento organizzato in maniera stupenda, con un sacco di pubblico, e non pensa che ci vorrebbe un torneo di tennis anche sul veloce in Italia, un ATP da creare campioni? Sfondo una porta aperta, Cristiano. Io credo che se si riesce ad avere così tanto pubblico per delle esibizioni, noi italiani non siamo un popolo da esibizioni, non siamo gli americani che vanno lì per mangiare i popcorn e divertirsi e guardare gli All-Star Game. Questo vuol dire, e l'ho detto mille volte, che bisogna portare grandi campioni e grandi eventi nelle piazze importanti. Se bastano queste esibizioni, questa come quella dell'anno scorso in cui c'erano le sorelle Williams, per suscitare così tanto interesse, così tanta attenzione, la risposta non può che essere sì. Però ci vogliono molti soldi, perché non basta organizzare un torneo ATP a Milano come a Roma, ma a quel torneo ATP devono arrivare i big, perché sennò torna a non fregare nulla a nessuno. Quindi certamente la piazza di Milano, che aveva anni fa un torneo di buono, di ottimo livello, perché di qui sono passati, ma negli anni 80... tutti i migliori, certo, avrebbe fame di grandi personaggi e anche di grande tennis. Giuseppe, provincia di Bari. Sì? Sì? Sono io? Lei? Certo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, io la chiamavo riguardo allo striscione, sabato al derby di Torino. Volevo chiederle, poi sapere cosa ne pensa, insomma. Ma sarebbe così difficile mettere una regola, se mai ce ne fosse? Cosa vuole che ne pensi? Tutto il peggio possibile. No, volevo sapere se era così difficile da parte della federazione o di chi per lei, insomma, mettere una regola molto molto semplice, cioè qualora dovessero esporre degli striscioni come quello di sabato di Torino, oppure in seguito a dei comportamenti diciamo violenti da parte dei tifosi, annullare, sospendere di colpo la partita, così senza, cioè non penso sia una cosa. Ma io credo che le regole, io credo che le regole ci sono, ma in Italia siamo il paese delle leggi e delle regole. Non le fanno rispettare. In Italia abbiamo un problema di applicazione delle norme, di applicazione del diritto, più che di proliferazione legislativa. Giuseppe, un fischio dell'arbitro, si ferma la partita, l'altoparlante dice la gara riprenderà quando quella porcata di striscione, magari se dicesse proprio così sarebbe divertente, non verrà rimossa. Quindi credo esistano, a meno che non le abbiano cambiate, alterate, modificate, perché star dietro al, ripeto, alla proliferazione legislativa, a decreti, legge e regolamenti in Italia, impresa disperata, io credo ci fosse la possibilità anche giuridica di agire in quella maniera. Sergio Roma, poi tutti a casa. Buongiorno. Per tornare domani, a domani, sì, l'ultimo sono allora oggi. Oggi l'ultimo della lista, sì. Allora, la mia osservazione è sempre sullo stesso argomento. Mi domando, chissà, forse visto il taglio del programma o qualche intervista che fate, vorreste sentire qualche volta dei giocatori rappresentativi. Perché in questi casi i giocatori che hanno un po' più di cervello, un po' più responsabili, non provano a intervenire in campo per richiamare attenzione su qualcosa di non credo sia compito loro, Sergio. Il giocatore va lì, il giocatore va lì e gioca, cioè è concentrato sulla partita, non so neanche se può vederlo o non vederlo quello striscione. Credo che i giocatori siano gli ultimi addetti a questa mansione. L'altra osservazione riguarda l'intervento di Sollazzo, sì, che conosco anche, lo leggo ogni tanto, ma io sono convinto che la Juventus abbia una squadra base più convinta e più determinata e adeguata alla bisogna riguardo allo scudetto, perché quando lui elencava i panchinari a me sembrava dei nomi che diceva che non fossero giocatori così tanto più di qualità di quelli del Napoli. Ha parlato insomma di Giaccherini, Pogba è molto forte, un gran talento. No, Pogba è molto forte, c'è Matri che è finito un po' di disgrazia ma è un signor giocatore, c'è Quagliarella che fa dentro fuori, c'è Isla che deve recuperare la condizione, ma secondo me rimane un grandissimo acquisto. Insomma, io credo che la Juventus sia più profonda e più qualitativa a livello di panchina rispetto al Napoli. Napoli mi sembra un po' più corto e poi fatalmente vive sulle sue superstar. Torniamo domani. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Questa luce sparata, sembra usando.